Luoghi d'arte. Un cordiale saluto da Marco Carminati. A Firenze siamo oggi, davanti alla grandiosa Reggia dei Medici, Palazzo Pitti. Al pian terreno, nel meraviglioso appartamento che oggi ospita il Museo degli Argenti, c'è una mostra a dir poco mirabolante e a dir poco originale. È una mostra, pensate, dedicata a delle sculture preziose che hanno una caratteristica di essere tutte in miniatura. Il mondo antico, il mondo romano, ha creato delle sculture gigantesche, pensate al Toro Farnese che c'è a Napoli, ma ha anche creato delle sculture che non erano più alte di 8-10 centimetri. Che cosa servivano queste microsculture? Ecco, la mostra lo racconta nella prima parte. Erano tutti oggetti naturalmente molto preziosi, fatti con pietre e calcedonio in particolare, semi-preziosa, e servivano per essere messi in cima agli scettri degli imperatori, ma anche dei grandi dignitari, dei consoli, oppure venivano incastonate queste testine ben lavorate nelle corone. E quando questi oggetti naturalmente perdettero il loro contesto, sparirono gli scettri, sparirono le corone, ma i calcedoni sono talmente resistenti e talmente ben lavorati che diventarono oggetto, soprattutto nel Cinquecento, di un famelico collezionismo. La famiglia dei Medici spendeva delle fortune pur di avere questi oggetti, che poi tra l'altro comperava e faceva montare dagli orafi, il Gian Bologna per esempio, dagli orafi di corte, facendo diventare degli oggetti preziosi, ulteriormente preziosi, perché si aggiungeva l'argento, il bronzo dorato, eccetera. E si collezionavano questi oggetti come noi da bambini collezionavamo i puffi o le figurine, cioè si facevano a gara per averne tanti, di colori diversi, e la mostra ci racconta anche dove venivano collocate. Venivano collocate nel Palazzo degli Uffizi, nella tribuna, cioè il luogo dove c'era il maggior concentrato di opere d'arte, sopra una mensola di legno lavorata che purtroppo oggi non c'è più, e lì raccontano che i granduchi di Toscana, con la scaletta personalmente, andavano a sistemare queste preziosissime sculture in miniatura di colori e di materiale differente. Ecco, questa è stata un'occasione molto importante, perché la mostra, oltre ad essere spettacolare, è stata oggetto di ricerca scientifica per capire fino a che punto sono originali, fino a che punto sono antichi, quali sono da dividere quelli rinascimentali da quelli romani. Insomma, è stata un'occasione non solo di farci gioire con gli occhi, perché francamente è allestita in modo spettacolare, ma anche di andare a fondo in uno degli argomenti più rari, diciamo così, della storia dell'arte, come queste delle microsculture collezionate dai Medici.